Ciao, ciao a tutti, siamo su Radio Wombat e io vi dico che oggi proprio siamo nella merda. Buonasera e benvenuti alla 26ª puntata di Fuoco alle Polveri. Salve. Ciao tesoro. Ciao Cairo. Tutto bene? Ciao a tutti, sì, abbastanza bene. Speriamo che ci stiate sentendo. Sì, veramente, internet ha rotto il cazzo. Faremo una class action contro la Wind. Qui diamo un pacco di soldi e non ci fa funzionare un cazzo. E siamo arrabbiatissimi. Ora vediamo un po'. Noi andiamo avanti e vediamo un po' cosa succede. Assolutamente. Al limite questo sarà un podcast. Male che va. Male che vada, ma potrete ascoltare la nostra energia anche via podcast. La tua, più che altro, sì. No, quella di tutti. No, la tua energia è una cosa particolare, ormai è risaputo, è risaputo. Fa bene proprio alla salute. Allora, 26. Sì, 26 come? 26 come due cose. 26 come il mio primo numero di maglia, nella prima volta che ho giocato. A livello professionale. Sì, vabbè, 26. Che hai detto, scusa? Come il mio primo numero di maglia. Vabbè, niente, 26. Poi... Allora, 26. Com'è che l'esce? Come te l'hanno affibbiato? Che... Totalmente a caso. Ma scusami, perché io mi ricordo che tipo nel calcio i titolari andavano dall'1 all'11, i panchinari andavano dal 12 al a quanti ce n'era, 17, 18, e poi gli altri aiuto. Nel baseball, no. A caso. Ok. Cioè, lo scegli tu, però mi piace di più, non è legato ai ruoli. Vabbè, ok. Poi ho avuto anche vabbè, altri comunque. Numeri. Ora ho il 12 se vi interessa. No, per niente. No, l'altro è che il 26 torniamo a ragionare di tarocchi. Ah. Il 26 è un l'aquila. L'aquila, l'uccello. Però è interessante perché praticamente questa cosa del volatile, che si ritrova in molte culture, il 26 è legato al volatile. Comunque le prime, il volatile generale. Mi fa ridere sia la parola volatile sia quello che stai dicendo. La prima attestazione del 26 come volatile si trova nella mitologia greca. Ah. Con Zeus che si trasforma. Pensavo negli Egizi. Anche se no, cioè, poi il 26 ha tutta una sua. Anche nella Kabbalah, per esempio. Sì. Il 26 rappresenta la somma delle lettere di Yahweh, quindi rappresenta il dio. Potremmo parlare a ore del 26. Ah, pensate, io pensavo invece, ma magari il 26 si salta perché che cazzo è 26? Invece no, io sono sempre pronto, sempre sul pezzo. Bravo. Comunque, insomma, 26 come il volatile. Cioè okay. L'aquila nel tarocchi, in alcuni tarocchi e in altri. In altri no. Il volatile. Il volatile. Vabbè, e siamo partiti con questa cosa del volatile. Tra l'altro il piccione che abitava nella redazione di Fuoco alle Polveri è sparito. Forse il nostro regista l'ha cacciato malamente. O non cucinato. O cucinato. Hai visto che spacciano con i piccioni, ci mettono sopra. L'ho visto, sì. Sì. Usano i piccioni, i viaggiatori, mi sembra anche un ottimo come sistema. Come una volta, dei lavori di una volta. Usano. Esatto. E che sta dicendo? Chissà, salve, niente, ok, okay. E, cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un po' delle nostre rubriche classiche, sì. E poi continueremo a parlare un po' di quello che era successo 2 settimane fa al Festival di Letteratura Sociale, riuscendo magari a mandarvi anche qualche contenuto. L'altra volta abbiamo promesso e poi disillusa volta... tale promessa, invece no, questa volta ci siamo, alla grandine. Alla grandine, e poi parleremo anche e soprattutto del festival invece che inizia giovedì. Exactly. Inizia giovedì. Primo giugno. Esatto, a Firenze, in Chiostri Ribelli. Ciao Brigida. Hola. E niente, ne parleremo diffusamente come abbiamo parlato dell'altro, del 2 settimane fa. Esatto, quindi vi diremo tutto quello che succede tutti i giorni. Evviva. E nel frattempo mandiamo una canzone così capiamo anche se esistiamo realmente oppure no. Essere o non essere. Thank you. Scusa, faccio prendere dall'entusiasmo. Chissà per cosa l'entusiasmo. Ma ci vuole sempre entusiasmo. Hai ragione. È vero, è vero. Ci vuole. Ci vuole. E poi va a fare i vostri. Allora, con grande. Con grande entusiasmo. E, cosa facciamo? Chiacchieriamo un po' di inchiostri ribelli. La volta ci entusiasma a breve. Ci entusiasmerà a breve. Allora, Inchiostri Belli, che cos'è Inchiostri Belli? Inchiostri Belli è un festival che è nato sui tatuaggi a Firenze, è nato sull'arte del tatuaggio e negli ultimi due anni diciamo dall'anno scorso e quest'anno poi nasce nel 2012 mi pare. Esatto. Sì. E nasce all'Emerson, al centro socialato gestito Emerson come appunto festival di tatuaggi e i cui ricavati sono sempre stati destinati a benefit per situazioni come ad esempio i compagni per il G8 per benefit per le spese legali dei compagni coinvolti a Genova oppure per i processi ai Notav E poi sì, dicevi bene, l'anno scorso il festival sì. Ha preso una forma. una forma itinerante. Esatto. Una forma itinerante tra vari spazi liberati di Firenze. L'anno scorso erano. La prima giornata in Via del Leone, Sì. la seconda mi pare La seconda in la polveriera. seconda in Polveriera, polveriera e poi poi l'Emerson. la E terza all'Emerson. Toselli. Toselli, due Toselli, è giorni in vero. Toselli con la sera all'Emerson. No, la prima era all'Emerson e la sera. È vero. Ah. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E, Sì, però non ha il microfono, non ha il quindi è vero microfono, cosa. quindi è vero quello che dice Ma Nico. dicevo che in realtà avete sbagliato e Eccolo. siete imprecisi. Sì, hai Non volevo ragione. parlare, ma me l'avete tirato La fuori. prossima volta ti buttiamo dalla La finestra, prima così. all'Emerson fu la prima serata di Sì. inaugurazione all'Emerson, poi Poi si la venne in polveriera polveriera, poi si andò a al fare il torneo Leone. di Leone come quest'anno sarà. Sì. E poi gli ultimi 2 giorni di tatuaggio in Toselli, che però Esatto, che che poi Via del Leone vuol dire anche Piazza Tasso alla fine, Piazza sì. Tasso, Via Sì. del E Leone. Toselli che nel frattempo è stata sgomberata, infatti l'edizione di quest'anno sarà volta Esatto. anche a dare in benefit per le spese legali proprio del Esatto. processo che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze occupavano Via Toselli. Mentre i giorni dell'anno scorso, gli ultimi 2 giorni dedicati appunto ai tatuaggi, così come era il festival iniziale, si erano svolti in Toselli, quest'anno Toselli mancando, si faranno in Corsica, Viale nell'occupazione di Corsi, Via Le Corsica. Viale Corsi 81. Quindi, ricapitolando, giovedì 1 giugno alla Polveriera, spazio comune, e il venerdì 2 giugno all'occupazione Via del Leone e Piazza Tasso, quindi ci saranno alcune attività che saranno svolte dentro l'occupazione Piazza Tasso, scusatemi, di Via del Leone, e altre invece all'esterno in Piazza Tasso. Sabato 3 giugno e domenica 4 giugno le giornate si svolgeranno all'occupazione Viale Corsica 81, e la sera del sabato 3 giugno i concerti saranno al Next Emerson. I Quindi, concerti c'è anche una presentazione sì, vero. alle 9 di un bel libro sull'esperienza della rivista Attraverso, la rivista bolognese degli anni 70, mi pare. Sì. Con Luca Chiurchiù. Pensa te. E dicevi prima che a differenza di come era cominciato il festival di Inchiostri Ribelli, incentrato sui tatuaggi, appunto, piano piano nel tempo le arti coinvolte in questo festival Certo. sono Si erano andate. aumentate, e per cui si parla di inchiostri al plurale proprio Sì. perché tutte le arti che bene o male usano l'inchiostro Inchiostro su muro, su foglio, su pelle. su pelle soprattutto. Quindi appunto tatuaggi, ma cioè ci saranno i tatuaggi, ci saranno i tatuatori, ma anche appunto fumetto, ma disegno, pittura in generale, poi tutte le arti, quindi ci saranno anche presentazioni di libri e concerti, molti Tanta concerti, musica in tanta mezzo anche. musica. Alla fine anche la musica nasce da una scrittura. Susi, stavo allontanando il microfono. Sì, come i migliori proprio. Ok, andiamo avanti. Andiamo Quindi avanti, concentriamoci prima di. Esatto, sulla sul prima primo giornata, giorno. direi. Abbiamo Bene. fatto una panoramica, adesso ci concentriamo sul primo giorno. Poi Allora, il moriamo. tutto inizia alla polveriera. Il tutto Sì. Esatto. inizia alle ore 14 del pomeriggio. Esatto, ci sarà, inizierà il live painting. Vi ricordate l'anno scorso? Cioè, ci fu un live painting e dei disegni quindi che sono rimasti su uno dei muri del chiostro di Santa Follonia, nella parte superiore del chiostro, Esatto. sotto il loggiato, un muro bello lungo, era stato dipinto da diversi artisti della scena Sì. Il fiorentina. tema era un po' la rottura dei muri, no? Sì, La rottura. sì. Infatti rappresentavano un po' quello, l'uscita dal muro. Hanno partecipato, c'erano James Boy, Exit Sì, Enter, Ninja, Ninja, Marcio, un grande Marcio, collettivo richiamato dalla EDF, Project Family, Brucio. insomma, che Sì, aveva. sì. Brucio c'era, insomma. Quest'anno le cose sono No, nel diverse, senso si appunto che questi rifarà per disegni ci hanno fatto compagnia, hanno un fatto anno compagnia alla intero. polveriera per un anno Infatti, io ho intero. visto mentre i ragazzi rimbiancavano il muro, tanti delusissimi, Dice alcuni no. incazzati. Dai, ragazzi, però Che fa? la cosa più bella è stato un signore che si è avvicinato e ha chiesto. Ma anzi, no, ha detto Siete dandogli arrabbiato: del bello? ragazzi, vi hanno fatto cancellare il muro? E poi in realtà no, In realtà perché no, il il muro è muro. stato effettivamente ridipinto Volontariamente, ridipinto dagli volontariamente. stessi che l'avevano. Esatto. dipinto anche l'anno io scorso. Io personalmente penso sia una cosa figa in realtà, cioè che quel muro poi dopo si trasformi ogni che anno. Che si rinnovi continuamente. Esatto. Appunto, e che nuovi artisti si mettano all'opera. Esatto, appunto, se è stato cancellato perché appunto inizierà dal il primo giorno questo live painting che porterà alla fine della giornata un nuovo muro, una nuova esposizione curale. Quest'anno se ne occupa quel collettivo di artisti di cui abbiamo già tanto parlato Ribellarti. E che fa Ribellarti e che fa assemblea in polveriera ancora esatto. ogni martedì. E si occuperà appunto e svolgerà questo tema, a quanto pare, che è il tema della solitudine, che è il tema che, con cui che abbiamo già visto un po' in giro. Sì, se guardate in giro, a me è capitato di trovare tante scrittine di questi fogli ribelli anche, artisti. Sì. E appunto sul tema della solitudine, questo sarà il tema che verrà affrontato su questo muro questa volta. Per insieme. Un altro anno ci saranno nuove una nuova direttive. Esposizione, esatto, su e così forever and ever and ever. Dunque, live painting e poi nel mentre tutto è insonorizzato da Machine Funk. Buono. Yep. Con musica funky, scratch e tanta, tanta gioia. Sì. Fantastico. Fantastico. Fantastico. Fantastico. Fantastico. Dice Guido, grazie Guido. Prego. Un'altra volta. È già la terza volta ti ringrazio. Fatti le domande. Poi ci sarà una presentazione qui in realtà verso le 17:30 e ci sarà la presentazione di un corso di scrittura creativa direttamente dal carcere di Sollicciano con i curatori del progetto e gli insegnanti e la presentazione di un paio di libri che sono usciti dal carcere, nel senso che esperienza di scrittura creativa ha tirato fuori del carcere di Sollicciano, nel carcere femminile di Sollicciano ha portato all'uscita di due libri, Alice nel paese delle domandine è un altro, e verranno presentati questi libri anche con una delle autrici che è un'ex detenuta che infatti adesso essendo fuori può portare a giro questa opera, è stata scritta collettivamente, è stato un lavoro di scrittura collettiva e quindi una serie di racconti verranno presentati, verrà presentato poi il corso di scrittura creativa che si chiama, mi sembra, scrittura ed evasione, quindi un po' il tema diventa quello del carcere, se le forme artistiche che si possono sviluppare lì dentro possono in qualche modo essere o d'aiuto o essere proprio delle forme di evasione oppure no, anche il dibattito ruoterà penso anche intorno a questo, insomma a me interessa molto. E questo verso 17:30 dopo ci saranno due spettacoli teatrali, uno è la performance teatrale Lungo il corpo, che di cui abbiamo già parlato, teatro se vi ricordate sì, di Vincenzo Marrese, che un mercato di qualche mese fa in Polveriera. Appunto questa performance fu molto suggestiva, sì. Penso al chiostro con tutta un'amplificazione che riempiva tutto il chiostro e lui, scusami, vai. No, c'era tutta la platea dall'alto, dall'alloggiato che assisteva allo spettacolo che si svolgeva invece giù in basso. Come un teatro, proprio. E no, poi lui dipinge con il carbone, no? Sì, con le fogli, sì. Quindi poi dopo c'è proprio l'arte, con poi il si corpo. Trasferisce, con esatto, il corpo. Si trasferisce poi proprio su tutto il corpo, le mani nere, il corpo nero, perché lui comunque cammina e si muove sopra la tela. È bello che sia di nuovo riproposto in questa cosa degli inchiostri ribelli, a spargere questo inchiostro sia proprio il corpo dell'artista, non solo la mente o la mano. Esatto. E prima, poi, spettacolo teatrale, orazione intima, sì, di messa in scena Grillo Conti Bernini. Che sì, ci fu. Ok. sì, è uno spettacolo teatrale tratto da un... Le lettere per gli analfabeti di Antonin Artaud. Ok, poi cena, aperitivo, cena. E dopo a seguire, concerto. Attenzione, grande concerto, Jackson Pollock. Mamma e, mia. E il re cane e suo marito. Mamma mia. Evviva, nel senso lo diciamo con tanta gioia perché anche... Ci piacciono molto, viva i Jackson Pollock, questo gruppo che definirei bellissimo, invece di dargli un genere, sì. Di Bologna, un duo scoppiettantissimo, direi veramente sì, scoppievole. E il secondo, appunto, Reccane e suo marito, li abbiamo già sentiti tante volte, li abbiamo già mandati tanto in radio, gli vogliamo tanto bene. Non mi ricordo di dove sono, di Ferrara, tipo, una cosa del sì, genere. Tipo. E questa, loro sono venuti. Se magari stiamo sparando tipo, è sempre in realtà solo di Milazzo. Li abbiamo già visti in polveriera suonare un set acustico esplosivo, a dir poco. Questa volta invece verranno con il set elettronico. L'anticipazione è che ci sarà un violinista a accompagnarli. E, durante la performance, cioè sarà una vera e propria performance, perché al di là del concerto, i Recchiani e suo marito fanno anche una sorta di spettacolo teatrale quasi, molto sì. Intenso, molto di corpi, robe. Sì, molto teatrale. Oppure Jackson Pollock, che l'abbiamo sentiti già, sia in polveriera che allo spazio Yam, insomma, quindi sono un gruppo a noi vicino. Sì, al Kulanka, come si chiama? Kulanka, no, ora si chiama Spazio Yam. Ora si chiama Spazio Yam. Bene, ok, è finita la prima giornata, giovedì 1 giugno, sì. In polveriera, sì. Mi raccomando. Direi che gli altri giorni ve li raccontiamo tra un po'. Nel frattempo, che facciamo? Andiamo una canzone? Mandiamo una canzone. Dai. Oh. As I did walk by Hampstead Fair, I came upon Mother Goose. So I turned her loose, as she was screaming. And a foreign student said to me, was it really true? There are elephants and lions too in Piccadilly Circus. To try and get some sun. Saw at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy. And a bearded lady said to me, if you start your raving and you're misbehaving, you'll be sorry. And the chicken fancier came to play with his long red beard and his sister's witch, she drives a lorry. Scarecrow make his rounds in his hand. As I did walk by Hampstead Fair on my horse, as she was screaming. Walked down by the bathing pond to try and get some. At least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy. Radio Wombat. Sì. Allora, eccoci qua, nonostante i problemi tecnici. Sì. Andiamo avanti, tiriamo dritto per dritto. Va bene. Allora, partiamo, si è chiacchierato, ci siamo dilungati a chiacchierare. Adesso si va con una... Con l'innamoramento. Sì. L'innamoramento italiano. Sudato è oggi sudato il tema. Dai. Se non sbaglio. Quasi, ti correggerò. No. Sono curiosissimo. Prego. Sigla! Cos'è che ci buttaste per mamma con tanto amore? Dubbi e sicure. Ebbene, ecco allora. Ciao Nico. Io, ragazzi, non mi fate più mandare la sigla da solo. La prossima volta voglio che lo dite voi. Sì, signore. Fatelo voi, su, mi sento triste da solo. Non ti piace autolanciarti? È come tuffarsi. Sì, è bello tuffarsi. È come l'autoerotismo. È più bello quando ti spingono. È più bello quando ti spingono nella piscina da dietro. Allora, insomma, che detto così è ancora più brutto. Allora, no, non è l'amore sudato oggi, ma la storia d'amore che andiamo a raccontare oggi, per come si era detto l'altra volta. Anche oggi il terzo pezzo magico, che vi lascerò attendere mordendovi le unghie. Oggi il tema è un po', cioè la nostra storia d'amore parte che è già finita. Così, c'è già la distanza, diciamo, si sono già lasciati. Quello che sentiamo sotto è un uomo piange solo per amore. Di Little Tony, pezzone magico del 68. La nostra storia d'amore parte che è già finita. La prima canzone che sentiamo è il dubbio che la storia d'amore possa già finire. Questa, diciamo, l'amore finito si lega oggi al tema della lontananza. E infatti oggi il tema vero e proprio è proprio la lontananza. Perché la lontananza delinea e costruisce l'amore, cioè così come la vicinanza. Crea il trascorso e crea anche l'aspettativa allo stesso tempo. Il primo pezzone che sentiamo è Quando vedrai la mia ragazza. Il dubbio di questo ragazzo lontano che parla con un amico e gli dice: quando vedrai la mia ragazza, dille quanto la amo. E dopo un po' dirà altro. Adesso vi dico però chi la canta, prima di spiegarvi che cos'è. La canta Antonio Ciacci. Chi è Antonio Ciacci? Lo conoscete tutti, Sì. Tutti quanti. È morto purtroppo. È la persona che canta questa canzone, il grande Little Tony. Ho scoperto una cosa pazzesca. Little Tony non è italiano, ma è sammarinese. Non ha mai avuto la cittadinanza italiana. Pensa, ma ha la cittadinanza di San Marino. Furbone, furbone. Allora, certo. Suo padre, lui ha cominciato come Michael Jackson a fare una... aveva la band negro. Con... era cominciato che era negro. Poi aveva il gruppo di famiglia col padre che si chiamava Novino, lo zio che si chiamava Settembrino, e Novino, Settembrino, insomma, è Antonio, che appunto chiamarono Little Tony, cioè Antonino, per... giusto. No, scherzi, in realtà non è, non è vero. E i suoi due fratelli suonavano in giro nelle sagre, nei ristoranti, nelle balere, poi la van spettacolo, piano piano andando in locali, sempre di locali in locali. A Milano una volta vengono visti da questo discografico inglese che ha un nome, una garanzia, che si chiama Jack Good. Certo. Questo Jack Perfetto. Good... li prende e fa: ehi, Little Tony, vieni con me in Inghilterra, ti faccio... Lo prende, lo porta in, appunto, in Inghilterra per una tournée con questo gruppo che si chiama Little Tony and His Brothers, che sono i fratelli del piccolo Tony, del piccolo Tonino. Veramente come Michael Jackson, comunque. E insomma vanno e rimangono diverso tempo in Inghilterra, dove lui si innamora del rock and roll, rincide molti brani del rock and roll più classico, che Johnny B. Goode, tutti questi qui. Stiamo parlando degli anni 60, inizio 60, sarà 59-61 più o meno. Il primo pezzone che lui manda, quando già si è ritornato in Italia, aveva già lanciato questi primi pezzi in inglese, appunto, queste prime cover. Si presenta a Sanremo col suo primo pezzo, la sua prima canzone, che canta in coppia col grande Adriano Celentano. E qui apro una piccola parentesi sul fatto che io ancora non mando un pezzo di Celentano. Stiamo aspettando. Ma io non lo faccio perché la mia regia è talmente tanto preparata che quindi non serve mandare Celentano, già manda i pezzi migliori. Già va di suo Celentano. Va bene. Wombat. Bene. Insomma, porta 24.000 baci con Celentano a Sanremo. Il primo successo di Tony, appunto, di Little Tony, sarà Il ragazzo col ciuffo. Se chiedete alle vostre madri, era proprio... Ma poi comincia a fare i film, i musicarelli, le solite... Fa tutta quella tiritera per diventare famoso che abbiamo sentito declinata in mille piccole storie diverse, ma che abbiamo sentito tante volte in questa rubrica. Nel 63 porta insieme a Jim Pitney, che era uno di questi cantanti come Mal, di questi importati dall'Inghilterra, appunto. Let's Tony e Jim Pitney cantano Quando vedrai la mia ragazza, un pezzo scritto da Carlo Rossi e Enrico Ciacci, cioè il fratello di Antonio, cioè di Tony. Era Enrico il batterista del gruppo. Little Harry. Enrichino. Enrichino. La cosa brutta in realtà è che non riesce, cioè Jim Pitney finisce quarto, Little Tony finisce ottavo. Vabbè, niente di che. Comunque è stato un grande, e lo ricordiamo soprattutto per quel grande featuring con Gabri Ponte che nessuno di noi dimenticherà mai, eh? Siamo figli senza dubbio di Pitagora e di Casadei. E adesso chissà c'era... cosa ci manderai dopo. E adesso ci spariamo, appunto, Quando vedrai la mia ragazza. Vi dico cosa succede, lo sentirete nel testo, ma lo ribatto proprio il testo. Dalla fine della seconda strofa lui dice: è lontano dalla ragazza, dice un amico, valla a trovare, dille quanto le amo. Dice: se lei mi aspetterà, dille che quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. Ma se vedrai che lei non pensa a me, se riderà di quel che le dirai, se tu vedrai che c'è qualcuno che ora ha preso il mio posto dentro il cuore di lei, ora ti prego, quando ritornerai non dire niente, ma nel senso non dire niente a me. Io capirò, lo sai, non dire niente, non dirmi niente mai. In un bar ci saranno due bicchieri per noi. E questo è l'inizio della fine della storia d'amore che raccontiamo oggi. Dai, eh? Amico mio, tornerai e vedrai la mia ragazza, devi dirle tutto quello che mi sento dentro il cuore. Dille che ormai io penso solo a lei, che morirei se non sapessi che tra poco tempo tornerò e per noi ci sarà anche il tempo della felicità. Dille che lei deve aspettare me che tornerò. Se lei mi aspetterà, tu che lo sai, tu devi dirle che quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. Perché ami il gatto più di me? Mi trascuri così per il tuo. È così, ragazzi. È bello. Perché ami il gatto più di me? Perché allora, mi trascuri? Il pezzo che sentiamo oggi è un pezzo di un gruppo meraviglioso. È un gruppo che si chiama gli Showman. Non so se qualcuno di voi li conosce, sono fortissimi. Sono un gruppo napoletano di uno dei padri della musica, dei grandi della musica napoletana, ma veramente dei super grandi, dei grandi di quella che era, scusatemi, dei padri di quella grande scena che era la scena jazz napoletana. Sappiamo che il jazz è andato di brutto a Napoli, l'abbiamo visto con Pino Daniele, l'abbiamo visto anche le altre volte quando abbiamo sentito gli Squallor, anche solo lontanamente. Comunque nel gruppo degli Showman c'è il grande James Senese. Chi è James Senese? Chi è James Senese? Un super sassofonista, il più grande sassofonista d'Italia, un sassofonista degli anni 60-70. È stato uno dei suoi primi gruppi, l'ha formato insieme a Mario Musella, che è un altro napoletano, cantante, bassista, molto forte, purtroppo morto giovanissimo, a 34 anni, poco dopo aver lasciato, tra l'altro, il gruppo appunto degli Showman. Insomma, era un gruppo che principalmente era nato da una volontà, come dire, di direi postmoderna, ma in realtà era tutta vera modernità. Cioè riadattavano pezzi classici, di quei pezzi che abbiamo sentito nelle prime puntate di questa mia rubrica, quindi pezzi degli anni 30, degli anni 20, canzoni che si sentivano al grammofono, insomma, e li riadattavano con questo loro super stile un po' rhythm and blues, un po' jazz. Riuscirono a lanciare dei grandissimi successi con questo metodo. Uno di questi è il pezzo che sentiamo oggi, che è Un'ora sola ti vorrei. Bella, questo. Che sentire. Ma leggila in questa prospettiva. È una cover del 38, di una canzone del 38, di una tale Fedora Mingarelli. È solo il nome, Fedora. Mingarelli. Era una di queste grandissime voci appunto degli anni 40, scritta da Umberto Bertini, Paola Marchetti. Già al tempo era molto famosa. Un'ora, ma faceva, era tutta così, capito? Immagino. Tutta molto. Un'ora sola ti vorrei. Ah, certo, certo. Così, tutta molto lenta, con un testo molto più arcaico, diciamo, nelle strofe, nel ritornello, identica a come la sentiamo. Loro l'hanno riadattata, ci hanno vinto un cantagiro, ci hanno vinto il girone B, scusatemi, del cantagiro del 68, che è un po' come dire il Festival Bar. Secondo, okay. Dopo di loro arrivò Mino Reitano con quel pezzo. Faceva avevo un cuore che ti amava tanto. Bene, avete bene. Presente Mino Reitano? Sì, quel grande Reitano, sì, questa Italia, tutto di spinta. Sì, è sempre così. Migliore. Era anche lui, Cazzarola è morto. Anche il grande Mino. Va bene, insomma, sono migliori andati. Sono andati sempre. Anche a Sanremo nel 69, hanno portato Tu sei bella come sei insieme a Mal. Nel 70 si è sciolto il gruppo perché appunto questo Mario Musella voleva fare il solista, ma non ci riesce perché muore. Ovvio. E nel 71 Senese prova a riformare il gruppo, lo chiama Showman 2, incidono un LP e poi si sciolgono di nuovo. Poco dopo però gli Showman, diciamo, fioriranno questo nuovo gruppo, che è un gruppo veramente importantissimo, ragazzi, sentitevi, sono musicalmente incredibili, e sono i Napoli Centrale. James Senese e Franco Del Prete, che era il batterista sempre degli Showman, fanno questo gruppo di free jazz napoletano pazzo. Ogni tanto si sente anche a Machine Funk, l'ho sentito, l'hanno messo un paio di volte, quello fa quando è bella campagna. No? No, la manderò io magari per compensare. Bello, bello, sono veduto. Pezzo veramente bellissimo. Comunque, ritornando al senso della storia d'amore, la canzone che sentiamo adesso è appunto Un'ora sola ti vorrei. Siamo sempre così lontani da questo amore oramai spento, si è capito. Però la lontananza che accende e genera queste canzoni bellissime, insomma. Dai. Ascoltiamoci appunto Un'ora sola ti vorrei, degli Showman. Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai. Un'ora sola ti vorrei. sei per me. Insomma, nonostante la lontananza, vorrei un'ora, anche solamente un'ora, per stare con te. Il pezzo, l'ultimo era pezzo, ragazzi, è un po'... Dì la tua faccia criminale. Padura, dice tutto. No, è un pezzo che per fortuna nessuno di voi conosce, ma è, come lo scorso pezzo, un modo per approfondire la contemporaneità, certo, ragazzi. Ed è un po', a mio avviso, chiaramente queste nuove canzoni, un po' rap, un po' trap, soprattutto quelle un po' trap, trattano raramente d'amore, certo. Perché i cantautori si vergognano adesso delle loro made emozioni. In Italy o made in qualcos'altro? E poi hanno... made in Italy, chiaramente, okay. Made in Italy, se non scherza. Però appunto i cantautori moderni si vergognano un po' delle loro emozioni, o forse hanno ascoltatori troppo underground per il mio timore tipo è che tu argomenti. Mandassi qualcosa di latino ti immagino. Contemporaneità. No. Insomma, è un po' la chiosa della storia d'amore lontana di questi due che si amano, non si amano più e sono lontani, troppo lontani. È un po' l'accettazione di questa lontananza, è un po' dire il tutto ok di questa situazione. La sentiamo e teniamo i microfoni aperti, così sentiamo le vostre risatine maliziose. Avanti. È tutto ok. Anche oggi non ti sento, frate, evito di scendere in centro. Ho gli occhi azzurri, ma sei distratta e tu non ci guardi mai dentro. Siamo su differenti piani. Io mi sbrano tutto, fanculo i nazi vegani. Ecco, il problema è questo, è che non mantiene un filo di concetto, capito? Cioè, anche se il momento romantico. Baci, levo qualche sassolino, fanculo i nazi vegani. Maleducato, super cafone. Fa troppo caldo, termosifone. Rimango nel blocco e penso magari scappare da tutto alle Baleari. Sopravvivo tra gli sguardi. E ora citazione grande. Ora penso solo al business. Comettina, cipollari. La tipa mi ha lasciato, ma è tutto ok. Il mio amico non risponde, ma è tutto ok. Fuori fa troppo caldo. Aspetta, ora ce la fate bella. Certo, è tutto ok. Ho finito i soldi, ma è tutto ok. Non c'è niente da fumare, ma è tutto ok. Anche se non ti sembra, è tutto ok. È tutto ok, è tutto ok. Che poi risenti la ex, frate, ti riprendi il pacco FedEx. Io che pensavo fossi mio fratello, ti lascio svuotare il mare con secchiello. Che palle, che palle, che palle. Nella pancia c'ho il nervoso, mica le farfalle. Io mi vergogno di aver premuto play. Il tempo play. Qui corre, siete più finti del culo di Grazia e del Torres. Adesso parte il pezzo ballabile, ragazzi, meno male. Facciamo una festa sul bagnasciuga a mezzanotte. C'è un po' questa spogliatezza, io teorizzo molto su queste cose. Vestito come il manichino di H&M. Andiamo là dietro e fichi fichi. C'ho la scimmia sulla spalla, Rafiki. La tipa vai, questa bella. Questa bella. Il mio amico non risponde, ma è tutto. Vabbè, adesso arriva il pezzo ballabile, ragazzi, non possiamo. Lasciamo gli ascoltatori ballare. Quando finisce, lasciamo gli ascoltatori ballare. Ho finito i soldi, ma è tutto ok. Non c'è niente da fumare, ma è tutto ok. Anche se non ti sembra, è tutto ok. È tutto ok. È tutto ok. Magicamente la nota un po' indiana, un po' che una babbare. Nota questa canzone arrangiamento da paura. Hai visto? Evviva Fuoco alle Polveri, evviva Radio Wombat. Ci la settimana prossima. Evviva Dubiezzi Core. Grazie, ciao. Nico. Dubiezzi Core. In pratica, Ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo. Eccoci. Spenti. Hola. Accenti. C'è. Dai. Ma io ci sono, sì. Bene, ci sono. Bene, ci siamo tutti. 7, ci 8. C'è anche Bri. C'è anche Bri. Attenzione, te l'avevi già ne sentita. Ne ho assunta. Sì, vi ho salutato tipo 50 volte. Bravo. Quando sono qua. Risalutaci. Ciao Bri. Ciao ragazzi. Ciao ciao. E oggi che facciamo? Volevo parlare di lettura. Dai, interessante. Allora, circa 2 anni fa ero al mercatino delle Pulci, quello che si teneva in Piazza dei Ciompi, che ricordiamo con tanto rammarico. E affetto. Esatto. Ci manca moltissimo e stavo camminando lì, è molto bello comprare libri, no? Sì, è vero. L'ultima domenica del mese, che ancora si tiene in realtà il mercatino, però si tiene in in Largo Annigoni. E niente, insomma, cammino e vengo presa, cioè, la mia attenzione viene richiamata da questo libro con questa copertina blu, i mattoni e quest'uomo che è praticamente murato all'interno di questo muro. Vabbè, niente, lo compro. È un'opera di Dino Buzzati, in realtà è una raccolta, è uno zibaldone di tutti i suoi pensieri che viene insomma composta dopo la sua morte, e si chiama Siamo spiacenti di, e già il titolo la dice lunga sul corso, tutta l'opera. Buzzati era uno scrittore del Novecento italiano e nasce nel 1906, quindi è molto, insomma, antico, diciamo. E, è un autore che è sfiducioso nei confronti del mondo in cui vive e quindi si crea una realtà fittizia per poter andare avanti. Solo che questa realtà fittizia è comunque specchio della realtà che è costretto a vivere tutti i giorni. E quindi l'uomo si vede sempre, vive la sua vita con, come se fosse su un cammino che porta verso un'illusoria speranza, che però alla fine si vede sgretolarsi davanti. E niente, è un poligrafo, scrive di tutto, poesie, opere teatrali, è un costumista e qualunque cosa. Ma quello che non tutti sanno è che Buzzati è anche un ottimo illustratore. E infatti nel 1969 fa uscire il romanzo a fumetti, che consiglio a tutti di sfogliare, leggere e vedere, perché i disegni sono veramente bellissimi. Non mai visto. Sì, sono veramente belli. E niente, ora vi leggo allora un po' questo racconto, che appunto è tratto dallo Zibaldone, Siamo Specianti di, e ha come titolo La vita. E niente, poi mi direte se combacio o no con la descrizione di concetto che vi ho dato, insomma. Per il famoso certificato andai agli uffici. Nel salone degli sportelli c'erano già 5 lunghe file, presso a poco di uguali dimensioni. Scelsi quella che mi parve la più corta. Contai. Dinanzi a me stavano 27 persone. Poi mi accorsi che la fila vicina, sebbene di pari lunghezza, si sarebbe esaurita più rapidamente. Questo perché erano appena 22, solo che occupavano più spazio perché grassi o con bagagli. Ma non feci in tempo a traslocare. Ai 22 della fila vicina se ne aggiunsero di colpo altri 8, entrati nella sala quasi insieme. Il locale era scuro, sporco e squallido, con muri vecchi e scrostati. Ma i 4 sportelli laggiù, in fondo, dei 9 disponibili, illuminati da intense luci al neon, risplendevano meravigliosi veramente. Nell'ansia di arrivare, la gente delle code non parlava. Ogni tanto, ma quanto tempo ci voleva, un passettino avanti. Dinanzi agli sportelli c'era un'asse, per deporvi documenti e simili. Su quest'asse, i primi delle file, finalmente giunti alla meta, si appoggiavano coi gomiti larghi, in atto di presa di possesso, e le facce, poco prima tese e pallide per il travaglio dell'attesa, si trasformavano, forse anche a causa del riverbero proiettato di là dallo sportello. Come erano felici in quel momento, con che sicurezza sorridente confabulavano con l'impiegato, come inarcavano le schiene, le quali contro luce diventavano nere e gigantesche, quasi sbarrando il passo agli altri. Intanto il secondo e il terzo, anziché restare incolonnati, rompevano la fila, disponendosi ai lati del primo, anch'essi appoggiando all'asse, ma con un gomito solo, e restando fuori dalla luce. Gustavano così un anticipo della prossima gioia, seguendo con gli sguardi impazienti le manovre del primo. Se complicasse le manovre del primo, in caso complicasse le cose inutilmente, se facesse domande superflue, se in qualche modo non tentasse di prolungare in forma indebita il privilegio di trovarsi là, coi gomiti larghi, a tu per tu con l'impiegato. Anch'essi, il secondo e il terzo della fila, sembravano diversi da coloro che, dietro a loro, avevano ad aspettare ancora un pezzo. Certi del successo imminente, si voltavano a guardare con superiore bonomia la lunga strada superata, cioè la fila lunghissima degli infelici giunti dopo, e specialmente rimiravano con soddisfazione gli ultimi, i paria, i reietti della società, appena entrati nella gara. A un tratto, non si sa come, si sparse tra la gente la notizia che, data la ressa, stavano per aprirsi altri 2 sportelli. «Ma che è impossibile!» protestava uno, già arrivato quasi in porto, e si accalorava, quasi si sentisse defraudato, dopo aver penato tanto vedere gli ultimi arrivati al suo livello. Si intrecciarono, come succede, opposte voci. Poi tutto avvenne in un baleno. Si udì un tramestio di là degli sportelli, si accesero le luci dietro 2 finestrini smerigliati fino allora morti, si intravide attraverso il vetro l'ombra di una testa, il pertugio fu aperto. Nella sala le lunghe e pazienti file di uomini e di donne si ruppero in una tremenda confusione e a decine, con gli occhi sfavillanti a ghisa di rapaci, la gente si precipitò di corsa a occupare i posti buoni. Io feci il conto. Dinanzi a me avevo ancora una 20 di persone. Restai qualche momento in forze, poi mi gettai anch'io verso il più vicino dei 2 sportelli che si aprivano. Quella breve situazione fu fatale. Quando ebbi compiuto di gran corsa il tragitto, già un nugolo di altre persone erano accorse e tra le rose voci si contendevano la precedenza. parevano un esercito. Stavo per tornare al vecchio posto quando vidi che la mia fila si era già serrata. A parte il fatto che in tanta penombra difficilmente potevo farmi riconoscere, la mia pretesa di incunearmi al posto di prima sarebbe stata addirittura comica. Mi acconciai quindi nella nuova fila e mi venne meno il fiato quando ebbi fatto il conto. Mi precedevano non meno di 35 persone. Non solo, l'impiegato di questo sportello doveva essere un avvettizio poco pratico e sbrigava un solo postulante nel tempo che i colleghi degli altri sportelli ne esaurivano due o tre. Era già tardi, la poca luce che veniva da certi alti e stretti finestroni resi opachi dalla polvere si affievoliva. Alzando gli occhi mi accorsi che erano accesi, altissimi, due globi elettrici, ma così fiochi che a malapena rompevano le tenebre. Quando fui a buon punto e appena sette mi precedevano, quante ore erano passate? Si ebbe un nuovo intralcio per una discussione allo sportello fra l'impiegato e un postulante. Dopo l'estenuante attesa, costui si era sentito rimandare a un altro sportello, dove avrebbe dovuto ricominciare da capo, mettendosi in coda a tutti. E ciò per una svista burocratica. Solo il collega, ha detto appunto all'altro sportello, diceva l'impiegato, era in grado di giudicare il caso, lui no. Lui era nuovo del reparto, chiamato là d'urgenza per accelerare un po' il lavoro. Poteva sbrigare solo le pratiche normali. Ci volle un quarto d'ora perché lo sciagurato, visto che l'altro non cedeva, si rassegnasse ad abbandonare il campo. Mi trovai allo sportello d'improvviso. Non me ne ero accorto. Preso com'ero da un'atonia mortale. Anch'io allora mi appoggiai all'asse coi gomiti larghi e anch'io mi sentii rinvigorito dalla luce che mi batteva in faccia. Anch'io sorrisi all'impiegato. Ma l'impiegato non era in vena di facezie. Dia qui, fece... sì, vabbè... togliendomi di mano i documenti. Udì qualcuno alle mie spalle che cominciava a protestare. Non si muove più quella lumaca e la fermo da almeno mezz'ora. Ma se era appena arrivato, se non aveva fatto neppure in tempo a respirare. Col certificato in mano lasciai lo sportello. Strano, adesso che lo avevo non me ne importava più un bel niente. Costeggiando i rapidi passi la mia fila, con vergogna intravidi i miei simili inchiodati ancora nell'attesa. Erano identici a me mezz'ora prima, visi ansiosi, tesi nelle abitudini dell'inutilità e dell'egoismo, gli sguardi di invidia e di odio a me rivolti, tutta quella preoccupazione miserabile, quel desiderio, quel fanatico amore per se stessi. Yeah. Prova, prova. Prova, prova. Vado. Prova quanto vuoi. No, vabbè. So che è un po' pesante come lettura, però a me mi appassiona tantissimo l'ironia cinica che usa, perché secondo me è troppo ironico. Vabbè, super. Vero? In qualsiasi ufficio pubblico. Grazie Andrea. Eccoci, dicevo, un po' la sociologia della coda è divertente. Poi ti immagini lì comunque tu in coda, perché ci sei stato mille volte. Mille volte. Esatto. La vita è una coda alla fine. No, il fatto è che dopo la coda l'aspettativa cala totalmente. Sì. Cioè uno si crea un'illusione che non esiste, no? Oddio, sì, finisco la fila, evviva, firmano i documenti, dopo niente. Come al solito. Che è un po' tutta la cifra del buzzati narratore, esatto, dell'attesa, sì, del momento. Che però non ci sarà. Non ci, esatto, sarà mai, o se c'è appunto è abbastanza effimera. Evviva Buzzati. Evviva Buzzati, sempre. Dai. Oh, Guidino caro, dimmi. Diciamo un po' cosa succede a questi inchiostri ribelli anche nei giorni successivi al 1 giugno, ossia... Il 2 giugno. Bravo. Il 2 giugno... Via del Leone, ricordiamo. Esatto. La giornata, slash Piazza Tasso. Sì, si svolgerà tutta in quel di Sapfrediano, quindi. E allora, dai. Dalle 14 in poi allora, free life painting su supporti recupero, come allora, anche l'anno scorso, esatto. Cioè pezzi di trovata di legno, porte. L'anno scorso c'era un bellissimo lavandino. Dipinto con un mostro, la faccia di un mostro. Sì, sì, sì, una, sì, faccia urlante, molto bello. E appunto live painting sui supporti, che poi come l'anno scorso verranno messi all'asta e contribuiranno a al benefit. Fare il benefit, esatto. Accompagnato tutto ciò dal DJ set, sì, e soprattutto dal torneo di calcetto. Esatto, in piazza. In the Plaza of Tasso. Esatto. Sì, quello. E tra l'altro verranno montati anche tantissimi, visto che Piazza Tasso principalmente è bazzicata dai bambini, metteremo dei supporti per farli disegnare intorno al campetto da calcio. Bello. Bello. Dai. Bellissimo. Dalle questo 14 in Piazza Tasso, esatto. In Via del Leone nel frattempo. Non è che sta con le mani in mano, ma no. Ci sarà una presentazione di un fumetto che si chiama, il titolo è Piattaforma 21, di Mattia Pagliarulo, con Mattia Pagliarulo, e niente, la presentazione lui stesso medesimo. In la sera ci sarà, come al solito, una cena, un aperitivo, cena, esatto, prezzi, sempre prezzi popolari, anche e da sempre bere benefit. Sempre prezzi popolari, tutto benefit. E la sera invece... Alle 21, sì, quindi in prima serata... concerto punk. Sì. Cosa mi fai, mi stai, no, mostrando? Niente, okay. Cioè i gruppi ci sono. Esatto, LVTN. Sì. LVTN. Sì. Più Bullshit Idea. Sì. E X DeLorean X. Bello, bellissimo. Bellissimo. A questo punto, già che siamo a parlare di concerti e di presentazioni di libri, possiamo dire che il giorno dopo, sabato 3 giugno, la sera, esatto, dalle ore 21, poi dopo vi diciamo cosa succede il pomeriggio, però prima la sera, dalle ore 21 in poi, al Next Emerson, esatto, ci sarà la presentazione del libro A Traverso di Luca Curcio. Grazie. Prego. Di e Luca già prima Curcio lo menzionavamo. Esatto. E poi ESA, il concerto di ESA. Quindi parliamo di pop. Yeah. Yes. Uh-huh. E yeah. DJ set di Ice One. Bomba, ragazzi, cioè, seratone alla fine, cioè, lo stiamo dicendo con questa flemma, non so bene perché, un po' il caldo, perché un po' la cosa, è la flemma delle 17:56, giusto, anche questa, io giusta osservazione, a 59 già meglio. È vero, sì, sì. E poi dopo vi diciamo appunto cosa succede durante la giornata, quindi venerdì 2 giugno durante tutta la giornata occupazione Via Leone e Piazza Tasso, sabato 3 giugno la sera ci saranno altri concerti all'Emerson. Vi lasciamo in attesa di cioè, dopo vi parleremo invece domenica, sì, e di pomeriggio, sabato, del pomeriggio, quindi un po' dei tatuaggi, esatto, nel senso quindi di, abbiamo dei momenti di tattoo. Ora vedo che Lillo si sta allora, direttamente da Norcia, da Norcia arriva Norcia, sì. Bricco Baldo. Ciao Bricco, buonasera. Ciao, buonasera, ciao, buonasera. Siamo abbastanza, dai, abbastanza a posto, sì. Fame? Abbastanza anche quella. Ora ci fai pensare, sì. Sì. Bene. Perché quell'ampredotto di oggi a pranzo alla fine buono. Buonissimo, ma dopo un po' sì, si fa sentire, sì, sì, sì, che l'hai digerito. Ecco. Doppio l'ampredotto ci vuole. Doppio l'ampredotto, la migliore scuola dice doppio l'ampredotto. Forse hai ragione, l'ampredotto cavolo nero oggi. Forse era quello. Ti dà più energia. Eh sì. riempie. Senti, e quindi invece adesso che ci racconti... Ah, Cavolo Nero però non è di stagione. No, Cavolo Nero, ragazzi, ora non ci penso. Malissimo. Quindi no, zero, ha prodotto Cavolo Nero. Cazzo, mi ha fregato la prodotta, lui Cavolo. Ce l'ha. Ce l'ha. Lui c'è il Cavolo Nero. Sì, te mangia. Mi dai queste cuffie. Sì. È buono, basta, mangia. Allora, pit stop. Cambio cuffie. Cambio cuffie, perché sentiva benissimo con quelle di prima. Infatti si è ripreso il regista. Furbetto. Furetto, furbetto. Allora, io vi ho portato oggi una ricettina semplice semplice e un'altra mezza. Va bene? Una ricettina completa, che è una ricettina delle polpette strapopolari fatte con lo sgombro nelle scatolette. Ah, va bene? Okay. Sgombro e scatolette, ragazzi, è una delle cose veramente più economiche del mondo. Proprio... sì. Ci ho campato in Portogallo un sacco. Buone. Solo... solo sgombro. Solo sgombro. Solo sgombro. E sarde. Praticamente... vabbè, le trovate sott'olio. Sì, sgombro tendenzialmente sott'olio. Dovete un attimo ripulire. A volte c'è un po' di, c'è un po' di lischetta. Va bene, quella la togliete. Sì, ma sono talmente piccole te le sgranocchie. Sì, sì, sì, ma no, no. Però se ci fate le polpettine, va bene. Deve avere un paio di qualche patata lessa in frigo, già lessata, avanzata. Oppure la puoi lessare per conto tuo. Va bene, sì. Ti prendi un po' di sgombro. Le quantità, naturalmente, ragazzi, dovete arrangiarvi. Nel senso che, bravo, dovete avere occhio sulle quantità. E ties. Dovete fare una cosa ben saporita, quindi insomma non lesinate. Esatto, non lesinate di sgombro e non abbondate di patate. Fate un buon mix. Sì. Ci aggiungete un battutino di aglio, prezzemolo, sale, pepe e poi un po' d'origano se volete, qualche spezzolina così. Va bene, fate un bel pastone e poi fate delle palline, le girate in un po' di fangrattato, sì, e vengono fritte. Buonissime. Buonissime, calde. Buonissime fritte, il giorno dopo sono eccezionali, le polpette, sì, ragazzi. Cioè, meglio tirando fuori un bel... Come le cotolette fritte sono sempre meglio. Come tutte dopo le cose fritte, sì, sì, tutte le cose impastose, sì, col tempo poi prendono tutto il sapore, prendono la sugna. E questa è una. Vabbè, e questa è una. Poi poi invece vi voglio dare un avvertimento che è non mangiatele. Un pre, va bene, perché fra qualche puntata verrà fatta la ricetta del nocino, va bene? E... no, ma è un segreto, così. No, però bisogna prepararsi a questa cosa, perché voglio dire, dovete intanto cioè avete un mesetto circa, sì, un poco meno di un mese per trovare un buon noce con dove potrete andare a tingere fra un mesetto a prendere zona Bassano Romano, c'è una quantità di noci pazzesche. Bassano Romano? Sì, Bassano, sì, Romano, un po' in culo, un po' in culo. No, no, prendete le autoctoni. Andate, si trova le noci, dai. È solo che quest'anno è stato un po' così. Vediamo, il freddo che c'è stato a un certo punto l'ha un po' affaticati. Però quindi, appunto, scusa, domanda, quindi tra un mesetto all'incirca, quindi a circa fine giugno. Circa fine giugno. Le noci sono buone. Esatto. No, le noci non sono buone. Le noci sono buone, ma per fare il nocino. Le noci sono ancora verdi. Provate a mangiare una noce. Cioè, fa schifo. Ma fa invece schifo. Quando è che sono buone? Sono buone dopo l'estate. Da settembre. A settembre potete trovare le noci cioè con il guscio e la noce dentro. Ma ora non ci sono in commercio qualcosa? Adesso. Da qualche paese. A voglia. A voglia. Certo. Assolutamente. Già che siamo lì, ci sono gli alberi a giro. Better prendere roba. Poi no, ma nocino, cioè devi farlo con le noci acerbe, va bene? Quindi non le trovi in commercio. Sì, sì, sì, quello è vero. È solo una cosa, certo. È solo una cosa, insomma, per noi appassionati. Va bene? Ok, quindi il consiglio, quindi andate a raccattare delle noci acerbe tra un mesetto. Guardatevi intorno se trovate andate qualche noce. Andate a fare passeggiate, allora. Andate a fare qualche passeggiatina, qualche picnic. Trovate qualche noce, lo adocchiate e fra un mesetto tornerete lì e saprete cosa farci. Bella. Va bene? Grande, Lillo. Vai. Non vediamo l'ora, tra l'altro, di scoprire anche questa ricetta, perché poi io so di mia esperienza personale, ma anche tanti altri che sono qua che attorno, fuori, che viene fuori una cosa viene un nettare, sì, buonissima, buonissima, buonissima. Quindi seguite i consigli di Lillo sempre, e non ve ne pensate. Sempre. E comunque. Bene? Ciao, Bricco. Ciao. And round the door, I got a big surprise. Couldn't see a thing but open sky. that she was here. I wish she'd hold my hand. Maybe she would laugh, maybe understand. Why was I so cruel? Where is she now? Yeah. Ora sì, vuol dire che parleremo di un paio di cose. Allora, facciamo un annuncio, quindi. No. Va bene, se ce l'hai, sì, io certo. Non so allora, qual è l'annuncio. Noi di Focale Polveri siamo ufficialmente sostenitori, tifosi sfegatati e ultra. Ultra, sì. Io ragazza dell'Atletico Degrado. Attenzione. Questo microfono fa un po' così, eh. Facciamoci spiegare direttamente al nostro regista cos'è l'Atletico Degrado e perché dobbiamo, ci siamo sentiti in dovere e in volontà di sostenerlo. Allora sì, innanzitutto brevemente dovete sapere che ogni anno da circa 10 anni, 12 forse 15, si svolge il campionato di calcetto, detto calci dal basso, al campo del Dazi, al Dazi Stadium, sì. Presso certo. L'occupazione del Cecco Rivolta. E abbiamo una squadra di cui alcuni della regia fra l'altro fanno parte, ovvero l'Atletico Degrado, che anche quest'anno, come ogni anno, si distingue per i suoi pessimi risultati, le sue pessime prove in campo. Quest'anno miracolosamente è stato invece ammesso alle fasi finali del torneo grazie a un piazzamento al secondo posto nel girone delle eliminatorie. E peraltro ci tengo a citare il bomber di questa squadra, sì, che è Samir, il nostro Samir, che ha fatto, si è distinto, si è distinto con ben 3 reti. Mamma mia. Boia. E quindi niente, lancio soltanto l'appuntamento alla prossima partita, gli ottavi, no, sì, quarti, i quarti, dici te. I quarti, i quarti. Si svolgeranno domenica 11, sì, sempre al campo, certo, del Cecco Rivolta. È bello comunque, c'è una bella situazione, invitiamo per lo scontro, fra l'altro, dell'Atletico Degrado contro i padroni di casa, la Dinamo Dazi. Quindi insomma, poi vi aggiorneremo sul quale sarà l'orario, ma una trasferta ostile, comunque tosta, tosta, andare a giocare di patate, poi loro giocano, loro in casa, conosco, loro giocano in casa, certo, è un campaccio, imbattuti in casa, no, come stanno andando loro? Sono forti, hanno vinto qualche edizione, per lo più spesso hanno vinto la squadra delle Boschi, che invece a questa mandata le ha prese sode proprio dal degrado, 3-1 per il degrado, ci teniamo a dirlo. Forza degrado, Samir, no, forza degrado, io voglio la sciarpa. Insomma, vi aggiorneremo. Dai, dai, sì, aggiorneremo ancora sui calci dal basso e sulle avventure e disavventure dell'Atletico Degrado. Detto questo, noi che facciamo? Guidino, ci affidiamo, Maro, alle corde, sì, alle corde di qualcuno che conosciamo, sì, bene. Sì, il nostro amico Grippo Pizzo, che penso che sia pronto per deliziarci con la sua solita cover del lunedì, che è sempre una gioia. Io, finché non sento la tua voce in cuffia, continuo a parlare, a blaterare, interrottamente, quindi a blaterare sempre con lo stesso tono. Io continuo a fare non questo. Stai... La canzone che oggi farà penso che sia di un cantautore, sì, famoso, calabrese. Pendragon si chiama. Eccolo. Solo musica fantasy. Ciao Griffo. Ci sono? Sì, al grande, benissimo anche. Una buono, bella voce. Buono. Che ci fai? Niente, è una canzone del 76, l'omonimo album del grande Rino Gaetano. Eccolo, vedi? Non l'album Rino Gaetano, l'album Mio fratello e figlio unico. Okay. Questa è la canzone Mio fratello e figlio unico. E mi sento di farla perché, allora, a parte, beh, è pazzesca, cioè, la conoscono tutti ed è una bellissima canzone, ma poi perché è veramente attuale, cioè, al di là, cioè, se tu cambiassi due o tre soggetti, tutto quanto esprime, insomma, un disagio diffuso e varie immagini anche, insomma, presentati in maniera gaetaniana, no? Rino gaetaniana, tipo, cioè, si va dalla salute, si va dallo sport, si va in tutti quanti gli ambiti e si esprime in questa maniera. Di base la solitudine, il disagio, mio fratello che è figlio unico, cioè, nel senso, un disagio, una solitudine che probabilmente dal momento che, non so, se ne parla così tanto, abbiamo parlato di ribellarti, abbiamo parlato del tema solitudine, abbiamo parlato, è un argomento che è caldo in questo periodo e quindi è calda anche mio fratello e figlio unico adesso, e quindi dai, me la sparo, ve la sparo, ce la spariamo. Perché non ha trovato il coraggio di operarsi al fegato, non ha mai pagato per fare l'amore, non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. Passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non è il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora malpagati e frustrati. Mio fratello è il figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. Fratello e figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. E ti amo Mario, oh, oh, oh, oh. Mio fratello e figlio unico, dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. Passato, frustrato, dimagrito. E ti amo Mario, oh, oh, oh, oh. Mio fratello e figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo Mario, oh, oh. Grazie. Bravissimo, bellissimo. Fischi, fischi. Fischi di approvazione. Fischi di approvazione da ovunque. Evviva, evviva, evviva, evviva questa cosa che succede tutti i lunedì su Radio Wombat. Secondo me è una figata, come praticamente tutto il resto che succede, e quindi siamo molto contenti. No? Ma a bestia. Va bene, a posto. È grande. Ora, a proposito di Davis. No. Di Davis, è un film abbastanza carino. No, a proposito di quello che stiamo parlando da tutto il tempo, quindi un po' d'arte, un po' di musica, un po' di festival, noi potremmo dirvi un attimo cosa succede a Inchiostri Belli nei prossimi giorni ancora, yes. Nel fine settimana. E poi invece mandiamo un contenuto, un pezzo, oh. Di quello che invece si è svolto alla Polveriera settimana scorsa al Festival di Letteratura Sociale. Che sarà un che dici, un pezzo di Cesare Basile, del cantautore Cesare Basile. Dicevamo, sabato 3 giugno, via Le Corsiche. Il pomeriggio, dicevamo. Eh sì. Ho detto solo la sera, il pomeriggio, dalle 14 sempre. Sì. Dalle 14, via Le Corsiche, iniziano i tatuaggi. Quindi vi presentate lì, ci saranno diversi tatuatori, portate la vostra idea, il suono, ci parlate. La vostra pelle. La vostra pelle e loro tatueranno tutti i ricavi di quello che pagherete con i vostri tatuaggi. Che sarà ben poco rispetto ai prezzi. Sì, beh, veramente di mercato. Buoni prezzi, insomma. buoni prezzi. E per buoni motivi. E per buoni motivi soprattutto, quindi esatto, tutto andrà in benefit. I tatuatori non prendono un centesimo, ricordiamoci. A chi va il benefit? Sì. Ai processati per l'occupazione di Tosellini, sì, ma anche per la Magliana, esatto. E per l'ex asilo occupato di Torino, giusto? Sì. Ok. E quindi niente, anche quest'anno appunto solidarietà ai compagni che nelle varie aree d'Italia, anche qui, sono stati colpiti dalla repressione che in questo periodo si continua a farsi sempre più feroce, anche se sembrava che non potesse aumentare, e in realtà invece sì. Con le nuove norme abbiamo visto anche l'altro giorno durante il vertice G7 a Taormina, le manifestazioni, c'è stata una grandissima manifestazione in realtà ai giardini Naxos, che è appunto a Taormina, in cui ci sono stati, oltre ai degli scontri, ma più che altro c'erano 5.000 persone che da tutta la Sicilia e dal resto dell'Italia sono andati fino a Taormina per esprimere un dissenso per quello che si stava svolgendo, che ragazzi, vabbè, non ne parliamo nemmeno. Sì, ma non è lecito farlo, a quanto pare. Non è lecito farlo, i fermi e le perquisizioni sono state a migliaia di tutti i pullman che sono arrivati, e tra l'altro non è stato trovato nessun situazione che non potevano essere portati, quindi nessun pullman poi è stato fermato definitivamente. Ci hanno provato, esatto, in tutti i modi, ma niente, cioè, secondo me qualcosa si trova anche alle gite quelle parrocchiali per Padre Pio, l'opine per aprire il panino di Johannes, e quindi veramente fanculo, a maggior ragione. Che volevo dire? Ah, tatu. Tatu, tatu, dicevamo, tatu. Sì, poi ci sarà anche dei lavoratori durante, esatto, durante workshop. La giornata. Sì. Questo di... Di? Di stampa... Allora, di legatoria. Serigrafia, sì. Quindi un laboratorio della, su, sulla serigrafia, su come si fa stampe in serigrafia. Esatto, okay. Si rilega libri, no? Oh, sì. Il regista, tra l'altro, è un maestro. Di legatoria, no? Sì, maestro, sì, no, questa... Non insegna nessuno, però... Va, vabbè, giusto, scusa. Un praticante, un dilettante, uno che si diletta. Dilettante in quel senso. E invece alle 17.30 presentazione del fumetto Macno. Giusto? Sì. Sì, sì. Rivoluzione russa. La rivoluzione russa in Ucraina. E, pello. Pello, pello. Molto bello. E poi di, dopo non ci sarà più niente in Viale Corsia e ci sarà una grande migrazione. Via tutti verso, verso Sesto e verso il Next Tennis. A limitare, limitare fra Firenze e Sesto. Esatto. Domenica. E concludiamo in bellezza. Sì, con questo programma che comunque è fitto e magari non stiamo dicendo nemmeno tutto quello che sta accadendo, comunque sono grandi giornate, oltre in cui ci sono appunto delle, degli eventi. Lo trovate ovunque, il programma, sì, è veramente ovunque in città, guardate sui... Sì, esatto. Al giro... Dai muri, volantini... Solo, ovviamente anche su internet, ma... Certo, internet. Sia su Facebook che su No Blogs, se non sbaglio, sì, no? Sì, c'è anche il sito. Esatto, che si tiene ci tiene aggiornati costantemente. Sì, sì. Comunque appunto dicevo, oltre agli eventi che quindi hanno un orario e uno svolgimento, sono giornate, almeno l'anno scorso sono state giornate molto belle di socialità, di festa, di arte che viene vissuta in tutti i sensi e le birrette, il sole, viva, si sta bene, eh? Esatto. Molto bello. Comunque andiamo a domenica, dai, perché c'è una cosa molto figa alle 14.30, sì, abbiamo detto in Viale Corsica. Bravo. Sempre tatuaggi durante, sì, tutta la giornata. E, c'è una, molto una cosa molto figa, c'è un workshop di fumetti, sì, Game of Chaos, sì, ovvero come creare una fanzine in un pomeriggio a cura di Telebrucio. Esatto, di Brucio. Telebrucio. Ciao Brucio, ciao Brucio, che appunto ci accompagna in Chiesa Ribelli ormai da eh sì, tempo. Sì, e sì. Stima, grande stima. Grande stima, sì. Poi, questo duricchia, sì, però alle 17.30 abbiamo un'altra, cioè abbiamo l'ultima presentazione del, sì, festival, che okay, i signori della e scena. Ne parlo, aspetta, non, scusami, volevo approfondire perché c'è chi lo sta leggendo. Ah, no? Vero? Sì, sì, sì. In realtà io sto leggendo il libro. E è scritto dal collettivo Terzite Rossi. Nasce nel 2010. Il collettivo? Sì, il collettivo. Bello. E pubblicando il primo libro, che sarà uno della trilogia, È già sera, è tutto finito. Viene, noi presentiamo l'ultimo uscito nel 2016, I Signori della Cenere. Ah, okay. E, una cosa però interessante da dire sul nome del collettivo è che loro, anche nel sito, si presentano come... cioè la scelta del nome è legata a Terzite, il personaggio omerico, che sta a simboleggiare l'opposto di tutto ciò che potremmo desiderare di essere. Dicono appunto il brutto in una società di belli. No, infatti, come potevano essere quelle greche. Di eroi pompati. Esatto. E niente, I Signori della Cenere è un libro veramente molto interessante, è scritto molto bene. Sono tre storie che si intrecciano, vi anticipo poco perché poi ci sarà la presentazione. Però i ragazzi vogliono dimostrare che è possibile una vita non governata dalle leggi del capitalismo, perché in un tempo che va dal Paleolitico all'età del ferro, si sono state ritrovate dei ritrovamenti appunto archeologici che attestano la presenza di società non gerarchiche, dove era possibile la parità, cioè dove vigeva la parità dei sessi, e erano società pacifiche totalmente. Ora, poi, insomma, questa spiegazione è un po' troppo... Il libro comunque è romanzato, okay, è molto interessante. Ok, ci ha incuriosito molto. Sì, devo dire... No, è interessante. In Corsica domenica. Sì, sì, domenica alle 17.30. Nel frattempo, sempre in Corsica, però nello spazio esterno. All'Area Cani. Area Cani. Autogestita. Fuori, ci sarà sempre un live painting sul muro, su uno dei muri di quell'area. Con un argomento, tema. Cioè sì, su un tema, bravo, la natura e la metropoli. Ok. Poi, durante tutta la giornata ci sarà il mitico e insostituibile torneo di basket. Sei fogato, lo so, Pizzo. Sì, certo, sì, da giocatori di basket, sì. Allora, sceglieremo che nome darle. Comunque una squadra. Ma ci sarà una squadra, certo, che certo, sempre certo, fuoco alle polveri sosterrà. Certo, certo. Bene. Ci sarà la squadra, sicuramente. Bene. Così, Quindi dalle, anche questo tutto il pomeriggio, dalle 14 tutto il giorno, bello caldo. Poi ci sarà l'asta di ciò che verrà fatto la mattina, quindi in che senso? Benefit alle opere realizzate in Piazza Tasso il 2 giugno, c'è anche scritto. Ok, esatto, fai tutto da solo e appunto questa asta che sarà appunto benefit per quello che dicevamo prima, il dalle 18 dei concerti, musica, Chili e No Bridge più Santa Sangre più Free Riders, quindi hip hop dal tardo pomeriggio in, sempre lì all'esterno fino a sera, con ci sarà la cena e poi la chiusura del festival la sera, quindi bandaccia e via. Bandaccia e via. Detto questo, noi parteciperemo con tutto l'ardore che ci contraddistingue. Ora io ardore. Appunto sì, ti piace ardore, molto, un po' futurista, un po' strano e Basile, che dici? Basile, dai, dico che tra l'altro il podcast della performance di Basile è l'unico che abbiamo per adesso caricato sul blog, però le promesse le manterremo con i nostri tempi, ma le manterremo entro il 2017, tranquilli. Entro il prossimo festival di letteratura avremo caricato tutto sicuramente poi tutte le altre gli altri contributi, le altre. E quindi adesso sentiamo appunto una dei pezzi di Cesare Basile live in Polveriera durante il Festival di Letteratura Sociale, con una breve introduzione direttamente di Cesare Basile. Pronti via. Wombat. Un paio d'anni fa un operaio a Catania viene licenziato. Nulla di strano, non succede abbastanza frequentemente. In diretta dalla Polveriera. Questo operaio che ha una famiglia prova a inventarsi un modo e allora prende 2 lire, se ne va al mercato ortofrutticolo, compra della frutta e della verdura e comincia a venderla abusivamente per strada. A un certo punto in una piazza dove sta appunto vendendo abusivamente questa roba, viene fermato dai vigili urbani che gli chiedono le autorizzazioni. Lui chiaramente le autorizzazioni non ce le ha. In diretta dalla Polveriera di Firenze, Cesare Basile, in un caldo venerdì di maggio, veramente nella merda più nera. I vigili urbani ligi al dovere, non solo gli dicono che deve assolutamente consegnargli la merce, ma soprattutto cominciano a prenderlo in giro, trattandolo veramente come un pezzente incapace di vivere. E allora quest'uomo, in preda alla disperazione, li minaccia e dice: se voi fate questa cosa io mi do fuoco. E aveva lì accanto una latta di petrolio o qualcosa del genere. E i vigili urbani, diciamo, per nulla intimiditi da questa cosa, continuano a canzonarlo e a schernirlo e gli dicono: ma che cosa ti dai fuoco? Ma non sei capace a vivere, non sarai neanche capace di ammazzarti. Il problema è che lui si dà fuoco e poi muore. Sera si affoga, menziono, va va va. vai va fa va va vai va va va va va va va va va va va. Venisse l'arso cane e se portasse vatti e pacione, venisse riste mano o la sera s'affoga a menziorno. E l'arso cane arriva scasarrerenno le locantere, spunta tra casci e trusci, se ne s'affoga a menziorno. Vai va va va vai va va va vai va va va vai va va va va vai va va va va va va va va va va va. Vola se fece fuoco, non poteva fare se inferno cola, se fece fuoco, cola se resa fuoco a mezz'orno, cola se fece fuoco, se non poteva fare se inferno cola, se fece fuoco, cola se resa fuoco a mezz'orno, va va va va va va. No, davvero bello, è stato bello. Manderemo nelle prossime, ogni tanto, quando le ricopriremo altri pezzi di quello basilate. Che è successo. Sì, in generale quello che è successo in quei giorni. La prossima puntata non ci sarai, sì. Tu la prossima io non puntata. Ci sarò, però, però sento già delle promesse su Maldonado, perché ci sono state, io c'avevo un sacco di domande per Tipo, un attimo, a parte un commento dell'ultimo Gran Premio, che non so se il nostro amico ha visto oppure no, che è qui sotto, ho paura che di dire qualcosa che adesso possa turbarlo irrimediabilmente. Che ha detto? Ok, no, posso fare quello che pare, quindi c'è stata insomma una super gara che non ho visto, ma ho intravisto, quindi avevo delle domande che però non posso, non quando sono qui mi interessa, ma continuo a fottermene nella vita di tutti i giorni. è giusto abnegazione, bravo, solo per fuoco alle polveri, sforzo solo per fuoco alle polveri. E voi ragazzi si fa niente, festa, ci salutiamo, ci sentiamo lunedì bellissimo. Prossimo, anche se non ci sarai, io ci sarò, quindi non ti preoccupare. C'è ancora una canzone che dice questo. Ah sì? Sì, se tu non ci sarai io ci sarò, fantastico. La manderemo senza farlo. Speriamo di no. Ancora non sono arrivato a arriveranno. Non la manderemo i 666, non gli 833 ovviamente. Arriveranno, sì. E salutiamo tutti. Salutiamo tutti. State ascoltando e tutte. Ci scusiamo se ci fosse qualcuno che costruisce antenne. Venga, ad aiutarci. Sì. O settimana prossima. Durante questa settimana, ovviamente, in Chiazzi Ribelli abbiamo parlato soltanto di questo, quindi ormai è chiaro e andiamo lì. Andare lì. E che invitiamo tutti. Tutti. Certo. E tutte. E via. E tutte, giusto. E niente, viva via, basta. Wombat. Viva Radio Wombat. Viva Radio Wombat. Buona. Buona. Wombat, Wombat. Boscata. Con le polveri. Vombat. Però domani noi facciamo il culo a zero. Vedrai. Domani.